Attenzione, canale 10K. Forte, ma forte. Beh. Sì, il segnale sono un pochettino modificato, sono. Lo so. L'altro giorno scusa, mi stava rompendo le balle, cazzo, stava stazionario, te l'ho raccontato forse. Questa antenna, non capivo cosa cazzo ci aveva. Avrei fatto il filo, ho preso il metro, come si dice? L'ho rimisurato, l'ho rifatto. Adesso uno e uno di stazionare su tutti i canali, neanche si muove. Ma giù sì. Perché c'è il filo sbagliato? Quando vai sbagliato mi su cazzo l'antenna non fanno le palle. Va per l'ora, esci che vado a prepararmi. Avaescio. Ha fatto sempre il pugno di nano. Ma più tardi anche là. Figa, ciao, ci sentiamo. Che bello. Prova la radio, c'è qualcuno? Ci bucano alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Sì, avanti Giulio, ciao. Oh, ciao Gianfra. E beh, come va? Stavo cercando un tubo. Chi era? Mi ho detto che stavo cercando una antenna. C'avevo un PL qua. Avevi un PL? Sì, ma l'ultima parola non l'ho sentita, forse è schiacciato male il microfono. Sì, perché sono capovolto. Un attimino che lo metto a posto. Ok, d'accordo. Figurati, c'ho tanti PL che non capisco niente, neanche io. Addirittura. E anch'io ne ho tanti, però visto che ce li hai, cosa vuoi fare? Non è che puoi buttarlo. No, perché c'è anche attaccato al PL, c'è il cavo, no? Ci sono, attualmente quanto ci sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci sono una ventina di PL collegati, quindi è chiaro che se non li etichetti, però l'etichetta non esce, se ne macella. Ok. Io ne ho due di quelli proprio buoni, quelli professionali come si deve, e non li ho mai usati, dubbi, mai usati. Li avevo presi, li avevo comprati e poi non li ho mai usati, perché ne dovevo mettere uno sull'antenna e uno qua, attaccato alla radio. Siccome c'erano già, in un altro momento li metto, e in questo momento è passato già un paio d'anni come minimo. Non c'è tempo Giulio, non c'è tempo, poi basta pregare, poi passa un giorno e te lo infatti, un po' il tempo, un po' perché non c'è voglia, un po' perché va bene come stanno funzionando, per cui si tira avanti così. Infatti, anche a volte non capisco niente, troppa roba. Che scavi, alimentazione, eccetera. Quindi questo qua cosa me ne faccio? C'è un PL ed è collegato ai poli. Credo. Non capisco perché lì e non è là. Cos'è? Un rebus è quello. Ecco, sono ricordato. Fa parecchio c'è finito qua di dirlo. Che macello. Vabbè, quindi lo devo ricordare che questo è HF. Giulio, non sono più, no, è un lavoro oramai, non è un lavoro perché devi ricordare quello che hai fatto magari l'anno scorso, però non te lo ricordi, è quello il punto. Ci metti le etichette, nel corso dell'anno li togli, li rimetti, li sfili, l'etichetta va via e si è fregata. Sì, succede così, in effetti succede così, e d'altronde cosa ci vuoi fare? Piano piano, con la santa pazienza, riprendi tutto da capo e ritrovi il suo posto dove deve stare. Infatti, il bello che siccome c'è questo PL che è così, collegata all'antenna tramite un commutatore che se lo vedi c'è una bocca aperta perché c'ha collegate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, no, Dunque sono 12 apparati. Sono 12, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sono 7, 14, quindi. No, sono 12. Quindi ci sono 12 tratte solo per la KF. E quindi le devi gestire in qualche modo. Ma non saranno pochi, non sono 14. Aggiungere qualcun altro, perché sono pochi, No, quelli sono per HF. Poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 che è quello per tratte, 12 che è quello che non può essere collegato a niente, sono ferme. Ce ne sono altri tanti per VHF, VHF e HF. Quindi è una marea. Come li avevo fatto a fare tutta questa roba? Neanche io ho capito. Lo credo. Vabbè, quanti anni ci sei per questa? Perché il problema è anche quello, quanti anni ci sei per questa? Col tempo è chiaro, una cosa oggi, una cosa domani, e a un certo momento ti rendi conto che hai fatto una maglia di cose. No, la fregatura che spesso non riesci a... non riesci a usarla, perché sono tanti apparati, ma sono spenti, perché... Vabbè, ho trovato qua il cavo, tu ricorda proprio che il cavo è una KF. No, non ci riesci, perché prima non hai voglia, quello è il motivo principale, iniziamo a averne voglia dopo tanti anni, poi ogni tanto cambia qualcosa. Poi, insomma, la tanchetta ci fa sentire anche, non è che puoi stare tutti gli giorni a fare un lavoro che praticamente al posto di godertele fate funzionare, stare a mettere cavi, contatti, connettori, trick e track, mamma mia, che casino. A volte è meglio averne due e basta. Sì, perché sono sufficienti, tra l'altro, bastano due e puoi fare il radio come vuoi, per cui puoi non fare il conto di tutto quello che hai dovuto spendere, perché se no magari ti metti davanti allo specchio e ti guardi e dici, ma ho fatto bene, ho fatto male, cosa ho fatto? No, diciamo che utili sono utili, nel senso che sono, insomma, a ognuno ci ha attaccato un apparato e quindi deve essere così. E essendo soprattutto una stazione d'ascolto, poi che cosa stare su varie frequenze anche contemporaneamente. Però non è così facile per la fine. Non è così facile. Perché ti scavi così? Fammi vedere un po'. La potenza è bassa, boh. Oggi c'è a caldo la parecchia. C'è da uscire fuori di testa con tutte le apparecchiature, mamma mia. Che è una bella passione la radio, però anche impegnativa, è molto impegnativa direi. Oltre che è costosa, è anche molto impegnativa. La disgrazia è che non so se si dovesse rompere un'antenna, come faccio, perché già ieri c'è stato un tentativo di una cornacchia di attaccarsi all'antenna, ma mica la punta, no, su un fianco voleva andare, ma con le antenne verticali, no, quelle molto alte, tra l'altro la più alta che c'è, si è messa su un fianco ed è di vetro resina l'antenna. La cappotta, cavolo, è un guaio, perché mi tocca da solo abbassare un palo enorme, salire sul ponteggio, che insomma non è che una cosa da fare tanto tranquilli. Insomma, l'età c'è, non è che puoi stare tutta la vita salendo a quelle altezze e sganciare i tubi contro i tubi, perché una cornacchia ha fatto danno. Beh certo, quello è vero. Arrivati anche ad una certa età, insomma, non è facile. non è più facile, finché si è giovane, ragazzi, va anche bene, però poi quando cominciano ad esserci un po' di anni sulle spalle, tanto incomincia a mancare la voglia, non dico la passione magari rimane, però la voglia di fare, infatti uno rimanda sempre, oh, io vabbè domani lo metto a posto, e domani si passa lo stesso, e dopo, vabbè dopo domani lo metto a posto, e così via, e passano i giorni, le settimane, e qualche volta anche i mesi. Ui, quanto siamo presi, la bubu. Purtroppo, guarda, poi ci sono tante cose da fare che non c'entrano niente, manutenzione, se in campagna le cose si sfasciano, quindi devi stare anche a fare operaio, anche se non è Luglia, quello è da fare anche a prescindere. Mi devo, tu pensa che devo sollevare il cancello, che pesa quello che pesa perché non scorrevo, ma lo devo sollevare anche poco a poco, poi devo andare con la mola e levigarlo sotto dove c'è il binario, proprio perché con la dilatazione tende a toccare il binario stesso e quindi il motore fatica, no? E tende ad andare in protezione. Ma lavoro che me lo temo, perché devo andarci giù, cric, guarda, è tutto da solo, perché ci sono io qua che faccio quei lavori, quindi di fare di reso, che ci puoi fare? È così. E beh certo, la manutenzione bisogna sempre farla. Lo so, questi cancelli così scorrevoli tante volte si puntano e hanno difficoltà a scorrere, perché in effetti è così. Anche perché o il cuscinetto o si consuma, o il ferro dove scorre si consuma e fa un piccolo scavo, e poi magari è col tanto che magari che ci deve essere di luce sotto per poter scorrere in maniera normale, e invece abbassandosi si punta sul binario ed ecco che così non va bene, dà fastidio. Cric, cric, ci vuole un cric, un martinetto, lo tiri su piano piano con tanta pazienza, soprattutto quando non c'è caldo devi fare quel lavoro, mamma mia. Aspetta un attimo che sta passando qualcosa, sentivo un aereo, speriamo non sia come ieri che vada a fuoco qualcosa. Disastro, cioè finché c'è la voglia lo fai, però quando ce ne sono tante di cose che ti devi un po' arrangiare, perché è ovvio che non puoi chiamare gente, no? Se chiami un qualunque tizio te ne butta giù, io mi ho fatto tutto, anche il cancello elettrico, tutto quanto, i citofoni come volevo io, insomma. Vedere che ci mette in mano qualcuno che magari è pasticcione, non ne capisce niente perché il progetto l'hai fatto tu, ti incasina la vita poi, quindi è così. Lo so, ti capisco, perché anch'io ho fatto praticamente, non dico tutta la casa, ma quasi, a me il simulatore sai cosa mi ha fatto qua? Mi ha fatto i muri perimetrali, mi ha fatto il tetto, o meglio i solai, no, non nemmeno il tetto, i solai, perché il tetto poi l'ho fatto io, mi ha fatto i solai e l'intonaco. Anzi, parte dell'intonaco me l'ha lasciata anche senza terminare, poi me lo sono dovuto terminare io, dopo che l'avevo preso 5 milioni e mezzo, sono stato cretino che gli ho dati prima di finire completamente a lavoro, vabbè, sono stato pregato, pazienza, non fa niente, ormai è andata così. Succede, ma anche io ho fatto impianto elettrico, impianto TV, impianto idraulico, tutto io ho fatto qua, è tutto funzionante alla grande, no? Non c'è problema. E io in certi lavori sono anche molto pignolo, per cui non è che sto lì a guardare, intanto se devo spendere per comprare materiale prendo il migliore, non vado a risparmiare materiale, e dopodiché se mi metto a fare perché vuol dire che lo so fare, se no non ci avrei nemmeno provato. Io sono fatto così. Vai, gioca. Beh, stai tranquillo che non sei solo su quello. Io dopo quello che ho visto, guarda, una pena, che non ti dico che abbiamo rimesso soldi veramente, se lasciavamo perdere era meglio. Ci hanno fatto le scale, volevamo fare le scale fatte bene, col marmo, eccetera. E volevamo fare il marciapiede fatto bene, tutto quanto. Beh, lo sai cosa abbiamo ottenuto ora? Questa gente, e meno male c'è anche un giovane strano, praticamente le scale me le hanno fatte in modo che l'acqua a posto di senza pendenza, no? Quindi l'acqua rimaneva sulle scale, idem per il marciapiede che l'ho dovuto fare ritogliere, ho dovuto anche comprare la attrezzatura perché hanno dovuto sfondare tutto quello che avevano appena fatto in calcestruzzo, quindi ti puoi immaginare, perché la pendenza era sbagliata, portato l'acqua dentro. Cioè, ma guarda che sono cose allucinanti, ma ci vuole molta intelligenza per capire. Oh, vabbè, anche dopo lavoro io, le avevamo fatte smontare tutte, perché sui cosi, come si chiamano, i marmi che ci sono sulle finestre, no? I battenti sulle finestre, che sono tutti di marmo, tra l'altro tutta la roba in marmo. Anche lì avevo fatto le pendenze verso l'interno, quindi se piove mi sembra evidente che l'acqua non è che vada fuori, ma l'acqua va dentro, lo potete cambiare. Cioè, ma io rimango a bocca aperta, cioè, insomma, non è evidente che tu le devi fare che con una piccola pendenza, perché tanto la pendenza non si vede quando rimane l'acqua e soprattutto quando entra dentro. Verso fuori, ma l'acqua vada sul cortile, vada sulla facciata, vada fuori dove ti pare piace, ma non dentro casa. Cioè, guarda, si vedono questi, l'operaio, il muratore è una razza a sé stante, ha la sua testa, lo suo gabbo, e purtroppo spesso non funziona. Ma io ho fatto praticamente più della metà della casa, lo sono fatto io con le mie mani, proprio perché conosco molto bene i muratori, perché avendo avuto contatti con loro per una vita, praticamente si può dire, quando facevo i lavori, per carità, non te ne dico niente. Un giorno faccio delle persiane, questo era nella zona lì, via Brigata Sassari, in quella zona lì, no? Faccio delle persiane e le riconsegno, poi loro dovevano murare i cardini, perché oggi si fanno quei telai, no? Oggi, già da un bel po'. Ma allora si facevano con i cardini a murare, non esisteva il discorso telaio anche per le persiane. Va bene, le consegno le persiane, prendo tutto, cardini, tutto quanto, le metto gli spessori tutto lungo il perimetro delle persiane per poter lasciare il tanto sufficiente in modo che quando aprivi la persiana non si toccava l'uno con l'altro, eccetera. Dopo una quindicina di giorni che gli avevo consegnato le persiane, me ne viene questo, dice, vieni, dice, perché io ho piantato queste persiane e adesso non riesco a aprirle. Come sarebbe a dire, non riesci a aprirle? Ma cosa hai fatto? Mi hai tolto gli spessori che ti ho messo? No, io non ho tolto niente, solo che adesso non aprono più, io li ho mulati. Vediamo un po'. Dice, si sono gonfiati. Gonfiata è la testa, tu no, non il persiane. Vado a vedere, sai cosa era successo? Lui, anziché mettere i cardini dalla parte di sotto, no? Me li ha messi dalla parte di sopra. Cosa succedeva? Che la persiana, anziché rimanere appesa, si sfilava e andava a pressare contro la suglia, contro il marmo, andava a pressare. Lui da sopra aveva imbottito bene a cemento, a un certo momento non poteva aprire, ci voleva una forza tremenda per aprire questa persiana. E lui è entrato nella stanza arrabbiato, vedi, io non ce la faccio aprire, da uno spintone forte, come si apre la persiana, si spanca e gli cadono giù tutti e due ante. Perché? Perché avevo messo i cardini da sopra anziché metterli da sotto, sì che ti puoi immaginare, avevo fatto i cardini a sfilare, meno male che non c'era nessuno per la strada in quel momento, se ci fosse stato qualcuno avrebbe ammazzato qualche persona. Questo deficiente ha burato i cardini anziché metterli da sotto, ha messo il perno, il maschio delle cardine, l'ha messo da sopra, dunque l'anello della persiana chiaramente era libera sotto, perché appena che si è aperta è caduta giù, si può immaginare, perditi cosa sono i muratori, per carità. Sì Giulio, ma anch'io ho fatto tutto l'impianto eccetera, ho previsto precauzionalmente per esperienza le canale grosse. Però ho visto che non c'è speranza. Tu prevedi anche la tontaggine dei muratori, però anche se la prevedi rimane sorpresa. È vero che me l'hanno fatto trovare col fil di ferro dentro, loro ci mettono il fil di ferro e va bene per poter tirare il filo senza bisogno di mettere la sonda. Ma quando arrivi all'atto del tramezzo, dove c'è la curva e dove c'è l'altro tramezzo, no? Perché le stanze sono quadrate, giustamente. Ma non fai una curva larga, proprio perché quello è il punto più disgraziato che c'è, perché quando con la cerbocchia, come si chiama, il curvato, fa la curva, può essere grosso quanto vuoi, se fa la curva stretta si è fottito, anche perché essendo curvato all'interno fa già da freno. Beh, cosa hanno fatto secondo te? Curva stretta. E io di lì impazzendo ho detto cavolo, ho fatto mai il corrugato largo per evitare queste cose e non mi ritrovo incasinato lo stesso. No, ma già c'è, basta tirare col ferro a ferro, ho capito che devo tirare col fil di ferro, ma non posso rompere i cavi perché non ci passano, che poi in curva hanno un diametro piccolissimo, che ce ne passano due, no tre o quattro. Guarda, vagliela spiegare, non lo capisco. No, non è che lo capisco, sono partizioni e basta. Io glielo dico sempre ai muratori, glielo ho sempre detto, voi non siete muratori, voi non siete nemmeno manovari ancora, perché dovete ancora imparare come si lavora. Io ho avuto 50 anni di contatti con loro, avete considerato che ho lavorato 50 anni in proprio, ti puoi immaginare se non li ho conosciuti, o voi. Per non parlare poi di quanto sono disonesti, di quanto sono disonesti, nel senso che sono ladri, nel vero senso della parola. Prova ad andare in cantiere, portati la borsa dei ferri, così la cassa dei ferri, e lasciala un attimino e fai da una stanza all'altra per lavorare. Non è che ti puoi trasportare tutta l'attrezzatura se stai piazzando ad esempio le porte o i coprifili, eccetera, no? Non è che ti puoi portare tutta l'attrezzatura da una camera all'altra. Ti prendi quello che ti serve, un martello, i chiodi, le tenaglie eventualmente se servono, vai e piatti i coprifili e poi prova a lasciarli così un attimo senza il tuo controllo e vedrai se trovi più ferri. Sono ladri nel vero senso della parola, non tutti chiaramente, già ci sono anche quelle persone oneste che la chiedono una cosa, non è possibile. Se sapessi, dopo te ne racconto una curiosa, ma curiosa veramente, guarda, proprio a riguardo del corrogato. Se prendi io Gianfra. Ti racconto la mia che è un po' più fresca. L'operaio con lo coso lì, come si chiama, col figlio, io volevo fare il pinto per il traliccio, no? Perché è fatto a ponteggio, anzi è un vero e proprio ponteggio che è stato solo autoportante. Tutto il calco, speriamo che è tutto bene. Mi raccomando, cemento a gogo, perché questo tiranti non è, quindi sono 10 metri, vedo un po'. Sì, ha mandato il figlio perché cosa ci vuole a fare uno scavo? A fare un bello scavo e buttarci dentro il cemento, io non ci provo adesso perché anche io devo lavorare, non posso stare appresso a loro come una sentinella, capito? Non sono detenuti. Quindi gli ho detto mi raccomando, eccetera, eccetera. Tutto fatto, ho tappato tutto e vabbè, ok. Poi ci vado, ma lo guardo bene, ho detto, ma oh, che strano, ma siamo sicuri che questo affare venga? Sì, il padre, sì, ma ha fatto bene, dai, un coso, sì, sì, ho fatto, mi ho buttato il cemento, guardate l'anticipo, eccetera eccetera, guardiamo, detto, ma scaviamo un po', ha scavato sul lato, no? Beh, lo sai quanto c'è il cemento, roba che neanche 10 cm, con il rischio che mi accadesse tutto in testa quando ho salito. Il padre è diventato pallido, il figlio ha girato e se ne è scappato perché le stava tirando il martello in testa. Fatto sta, media di soldi, aiuto, bettoniera, ha fatto roba di 20-30 bettoniere, ci ha fatto direttamente il plinto, tipo quello che fanno per le gru, per raggiungere le gru. Guarda, un lavoro che sono stati mattina e sera buttando dentro calcestruzzo. Tu figurati se ti fidavi a salire su, che fa una forza, perché il peso c'è, no? Anche se sono, se pesi poco, però su un ponteggio che non è ancora alto, cacchio, come fai una gettatina ridicola di 100, c'è buona probabilità che mi vari adulto. Quindi guarda tu, ma tu devi stare attento con questa gente. Ma attento veramente devi stare, perché se ti distrai un attimo, guarda, ti fregano, e ti fregano nel modo come fanno il lavoro, e soprattutto non devi dargli la possibilità di comprare materiali loro direttamente. Tu, anche quello mi è successo, c'era questo, avevo dato l'ordine a un negozio che c'è qui vicino dove sono io, quando viene il muratore dategli il materiale che chiede, e poi io vengo sabato e saldo tutto il conto di tutta la settimana. Va bene, d'accordo, è così faceva quello lì. Vado lì, a pagare, guardo la lista del materiale che c'era, e c'era addirittura, pensa, ancora la mia casa ancora era in blocchetti da intonacare, addirittura c'erano i fustini di tinta da imbiancare, c'era, però questa tinta da me non c'era. Ho guardato, ma come mai questo qui, la tinta ancora non gli serve, se non è nemmeno intonacato, ma evidentemente l'ha comprata e sarà in cantiere, vediamo, controllo, e non ce n'erano fustini di tinta, e i bidoni della tinta. Le ho chiamate e le ho detto, così, come mai? Mi servivano. Ah, ti servivano, però tu me lo dovevi chiedere che ti servivano, perché quello lì mi dovrei pagare io. Ah, sai cosa faccio? Adesso vado di nuovo lì a San Via e le dico che questo è il materiale, vieni tu, vai tu a pagare, io pago tutto quello che hai comprato per me, tutto quello che hai comprato in più che non ti serve, vai e te lo paghi tu. E così è stato. Io non glielo date, e quello l'ha chiamato, e poi evidentemente lui è andato e gliel'ha pagato. Ma per dire, no, se non sei attento, si compra un materiale, come è successo un altro, che te racconterò adesso al prossimo passaggio, vai. Se per me non è capitato lo stesso. Qua avevo l'autocarro, amico, con i carichi, a caricare sabbia, terra e compagnia cantante. Ma guarda, te l'ho detto, sono una razza a parte. Poi non parliamo anche gli altri, perché ognuno viene, sono come le cornacchie, no? Vanno a pizzicare qua e là e fanno disastri. Qua cancello non ne ha toccato nessuno, dall'inizio l'ho toccato io, perché ho detto, chiunque chiami qua fa un casino. Quello dove lavorano, quel povero cancello che si apre al libero, lo fanno riparato 3 miliardi di volte, quello interno idem, e nessuno fa niente. Ma vogliamo capire che un minimo di manutenzione dovevano fare. Hanno chiamato questi, li ho visti, mi sono messo le mani in testa, che erano col martello, con la mazza, sulle cerniere. Ma cosa si vende? Ma certo non le ho detto niente, però mi sono messo le mani in testa. Infatti il giorno dopo non apriva, la mattina no, sempre a causa di dilatazioni varie, non apriva più niente, si è imballato tutto, siamo rifatti fuori. Cioè, per dirti, no, vengono tutti convinti, mazza, mazzetta, dare colpi qua, là, poi fanno i disastri. Ma se io, quando stavo facendo la casa, gli avevo dato quasi 2 metri cubi di sottomisure, perché servivano per fare le armature, no? In modo poi per poter gettare i cordoli per i solai, eccetera, eccetera. Gli avevo dato quasi 2 metri cubi di legno, di legname. Ogni metro cubo costava 400.000 lire all'ora, costava, ti puoi immaginare. Allora, sto parlando di quando c'era la lira ancora, no? Beh, a un certo punto, un giorno vengo qua, perché è la casa questa dove sono io, no? Guardo e ci manca tutto il legname, boh, lo chiamo, Antu, ma è il legname dove l'hai messo? E dice, mi serve in campagna, mi sto facendo una casa, poi già te l'ho riposto, vabbè. Lì per lì ci ho creduto, me lo riporta, vabbè, fa niente. Però me lo potevi anche chiedere, il legname è il mio, non è il tuo. Dopo che tu hai disarmato tutto, il materiale era tutto il mio, doveva rimanere lì, doveva rimanere. Beh, finisce e si fa la casa in campagna. Quando poi ha finito in campagna gli ho chiesto, beh, il materiale, il legname, non me lo riporti. E cosa te lo riporto a fare? Se tutto quanto pezzettini, perché tra i pezzi che ho tagliato a te, tra i pezzi che ho tagliato qui da me, cosa te ne fai? Tutto a pezzettini. Insomma, in poche parole, quasi 2 metri cubi di legname se l'ha preso lui, non ha pagato un centesimo per comprarselo, intanto quello. Poi un altro lavoro, una volta, un altro muratore ancora questo. Io avevo fatto dei lavori al Bano, quello che commerciava per lo vecchio, quella volta era in via Castelleggia, no? Tornando al discorso tubi elettrici, eccetera, eccetera, c'era l'elettricista, era Gasperini, quello che c'era una volta in via Al Rosello a Sassari. E gli diceva Renzo, il proprietario della casa, non vieni, Gasperini, non vieni a infilare i fili, così, non ti preoccupare, re, ascolta, fai una cosa, e tanto era un appartamento sempre, no? E questa era una casa, una vedetta ed in bici. Non ti preoccupare, dice, puoi anche portare i mobili, tutto finito, mando tutta la squadra degli operai, in una giornata ti finiscono tutto, ti infilano i fili, ti mettono i frutti, ti mettono eccetera eccetera. E vabbè, così è stato, la casa è finita, addirittura già mobiliata, va l'elettricista a infilare i fili delle scatole, infilavano 20-30 cm e poi non andava più avanti la guaina per infilare. Cosa era successo? Che non c'erano tubi, avevano messo le scatole e 20-30 cm di tubo e basta, per far vedere che l'impianto l'avevano loro murato. Invece non c'erano tubi in tutta la casa, ti puoi immaginare, Gianfranco, che disastro che avevano fatto. Vabbè, direi da chiamare i carabinieri, la farli mettere dentro. No, qua era capitato invece che l'operaio si era affidato e aveva fatto venire anche, non so se era il cugino o cosa era, anziano lo stesso, e tra l'altro non era gente giovane, era gente anziana, quindi è venuto il fratello, quando se n'è andato mi ha detto ma la nostra attrezzatura che l'abbiamo prestata, perché non l'ha messa a posto? Abbiamo guardato, attaccarla, niente. Quando è venuto il muratore abbiamo detto, ascolti, ma ci manca questo, quest'altro e anche questo, dov'è? E deve essere, siccome l'aveva fatto altre volte, quella ha detto, non si preoccupa, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Certo, il giorno dopo, quello là non abbiamo più visto, è venuto, questa ci manca qualcosa, no, adesso c'è tutto, capito come si lavora? Sì, sono ladri, te l'ho detto, sono ladri, disonesti, per carità, no, non è possibile, non è possibile assolutamente, guarda. Sono una categoria di persone assolutamente inavvicinabili e soprattutto è impossibile contattarli. È rara, rara la persona, il muratore che sia onesto, che sia serio. Poi si criticano, non fanno altro che criticarsi l'uno con l'altro. Poi, durante il giorno c'era un bar di fronte a dove c'era, e c'è ancora, dove avevo la bottega io, no? Lì all'angolo avevano fatto una palazzina. Durante il giorno lavoravano, poi appena riuscivano la sera alle 5, subito in quel bar. E cominciavano a bere, a bere, a bere. Alla fine si azzuffavano tutti, tra di loro, gli operai che stavano lavorando nello stesso cantiere. Una vergogna, guarda, una vergogna. Infatti da poi, dopo qualche giorno, l'ha saputo l'impresa e ha mandato via tutti quanti. E ha cambiato tutti gli operai. Per dire, no, è una vergogna veramente, solo, per carità. Il fatto che poi ho notato una cosa, che quelli bravi non c'hanno fortuna. E c'hanno questi cani che non disegni, che sono sempre più fortunati al lavoro. È una cosa micidiale, purtroppo. Oh Giulio, tornando un po' al nostro campo, io vorrei fare una prova. Praticamente potrei andare in CV, anche qua va bene, tanto un attimo, però tu mi devi dire, siccome qua non lo segna, cioè, o meglio, lo segna l'emissione, però non so se l'emissione va bene, perché io anche con il ricevitore qua lo sento, sì, ma è saturo perché è troppo vicino, quindi non so il livello. Quindi vorrei provare un attimino se questo attacco sta andando, soprattutto se l'apparecchio dà la nota giusta. Tu mi puoi cercare nei vari sistemi di emulazione, a parte FM, vabbè, quello intanto in CV, in banda laterale, dovrebbe essere più che sufficiente per capire se c'è una nota e se è chiara, soprattutto. Tanto l'apparato è isofrequenza perfettamente. Ok? Sì, io posso andare in CV doppio e anche in banda laterale, posso mettere, vediamo un po' con l'antenna che ho io se riesco a recepire tutto quello che mando in aria, vediamo un po', vai, prova. Sì, sì, giusto per sapere se c'è la nota e se la nota ti arriva chiara, perché a nostra distanza dovrebbe essere più che sufficiente. Ok, faccio una prova, dopodiché ripartiamo qua in AM e vediamo com'è andata. Ok, d'accordo, aspetta un attimino, che adesso, perché siccome sono sul canalizzato, dovrei andare sulla sintonia continua, perché sennò qui mi scombina il canale, ma è un attimo, faccio in fretta un attimo solamente, ci impiego, ok? Sì, sì, ok, dammi tu via. Allora, Gianfra? Sì, che facciamo, vado? Sì, vai, ho già sintonizzato, metto CV doppio, USB o LSB, come, dove vuoi andare? Quello lo devi vedere tu, quello, io sono certo di essere a 27.075.00, quindi questo è termostattato, adesso è anche caldo, quindi sì, è proprio in onda. Quindi basati su quello e vedi che la nota sia chiara, proprio deve essere limpida, perfetta, oserei dire. D'accordo, proviamo, dai, vai, vai. Ok, a fare tutti. Mi ha sentito? Sì, sì, e ti sentivo sia in USB che in USB. Allora, in USB era un po' più bassa, era, però non sentivo il bip, sentivo i colpi, sentivo. In LSB invece era più forte, più chiara anche, come cosa, come colpo, capito? Sì, ma la nota tipica del CV si sente, no? Non è che senti solo i colpi, tan tan tan. Non lo sentivo i colpi, non sentivo la musichetta, diciamo, dai, non la sentivo quella. Ecco, allora non sta andando... Oh, va bene, strano. preoccupante. Lo so, riprova, ci sarà qualche accortezza da fare. Riproviamo di nuovo, se credi. Facciamo una cosa, io ti mando solo nota, quindi niente testo. Ti mando una nota di 5 secondi addirittura, quindi tu dovresti centrarla, ripeto, la roba è centrata, perché questo è, insomma, è serio come apparato, quindi non c'è da sintonizzarlo. Magari se tu sei un po' fuori, eccetera, prova a muovere un po' a destra e a sinistra, vedi un po'. Ok, ci riprovo, ok? Ok, proviamo, dai. Io comunque già sono centrato, no, non è un problema, questa radio è abbastanza tranquillo in quanto a quello. Va bene, proviamo, dai. Ci prova, già fa. No, non si sente niente, Sampa. Oh, perbacco. È molto strano perché io la sento, cioè ce l'ho qua, mi dà la potenza anche, perché se non premo la potenza non sale. Ti mando un cercale, che è un segnale digitale particolare, no? Tu dovresti sentire un rumore tipo tri, capito? Una cosa del genere. Però lo dovresti sentire chiaro, nel senso che è una forma di segnale, come può essere una telescrivente, diciamola così. Ci riprovo, questa volta ti mando la telescrivente, vediamo piuttosto se mi ricordo com'era. Ok? D'accordo, allora fai una cosa, fai un passaggio un po' più lunghetto, così vedo di sintonizzarti anche col WFO, sia che io veramente sia fuori, ma comunque io dico che la radio questa è perfetta in quanto alla frequenza, per cui è sempre in isonda, quando metto così 27.085.00 è perfettamente in isonda, no? Non c'è problema. Ad ogni modo, adesso se vuoi provare, io passo di nuovo in CV doppio, no? E poi cerco di centrarti sia col WFO, cercandoti sia in LSB che in USB, ok? Sì, quindi ti mando ancora la nota, così è, di 20 secondi, una nota CV fissa però, di 20 senza manipolazione. Va bene, d'accordo, però. Tieni presente che è molto stretta, quindi basta qualche hertz fuori e non la senti più. Ci provo, vediamo. Che è successo? Sì, adesso sentivo una cosa così, un rumore, un fischio, là, una specie di fischio. Lo vorresti conoscere, il tipico fischio del coso lì, del tubo doppio, una nota di un certo valore di Hertz che poi viene manipolata dal tasto. Sì, c'era. Mandalo di nuovo. Dai, riprova. Riprova? Sì, riprova. Perfetto, Gianfra, perfetto. Perfetto, prima l'hai messo lungo e poi l'hai intervallato a colpi. Sì, va perfetto, è sempre quella, è perfetto, va benissimo. Oh, ottimo, quindi sta andando, mi sembra strano perché ho fatto tutto, dovuto cambiare jack, cambiare, va a fare sul tasto. Etc. Adesso ti mando il Sercal, cosiddetto, un sistema particolare che serve anche per telefonare, quello che si manda praticamente il numero di telefono, in parole povere. Quindi non dura molto, dovrebbe essere in USB, se non ricordo male. Però tu prova anche sulle altre. Va bene, prova. Perfetto alla grande, Gianfra, proprio perfetto alla grande, questa è proprio una musica straordinaria. È come, sì, quello è il, si chiama in gergo salcara e salcalla, usato quando devi fare una telefonata, ancora le povere, capite? Viene usato anche dagli aerei. Quindi sta funzionando, ho visto che sta funzionando, purtroppo ci vorrebbe anche un apparecchio che rispondesse, ma non è così semplice, va e trovalo, perché il corrispondente quando riceve quella sequenza risponde, capito? Tutto in automatico. Ho capito, sì. Quella è, comunque era USB, era, ecco, hai detto bene tu inizialmente, era USB comunque. Sì, perché si imposta praticamente, si imposta automaticamente. Quindi anche questo mi pare che sia risolto. Purtroppo è difficile, guarda, a te sembrerà strano, forse neanche troppo se si ascolta, ma è difficile trovare gente con cui avere la possibilità di fare dei test che non siano quelli soliti, che fanno tutti di radio, di microfono, eccetera, perché qua è molto più complessa la cosa, capito? Perché praticamente non c'è nessuno, e quei pochi che ci sono non sanno neanche di cosa stai parlando, se in arabo, in cinese o che cosa. Lo so Gianfra, lo so. Ma non c'è problema, quando tu hai necessità di fare qualche prova così a riguardo mi chiedi se io sono in grado di sentirti, senz'altro mi fa piacere anche dare una mano, perché è giusto che sia così, perché io parto sempre dall'idea che fare il radioamatore, non nel mio caso, io sono un CB, però sempre un radioamatore sereno, magari senza patente, però sempre di radioamatore si tratta. È il mio caso, e mi faccio sempre dall'idea che la radio serve soprattutto per queste cose qua, per fare queste prove, per non per dire pasticcio come si dicono i 27 sempre. Sì, ma lascia perdere il discorso degli amatori che è un po' più complicato. Ma diciamo anche che chi le piace fare ascolto non deve, guarda, molti SQL non hanno mai trasmesso, se vedi quello che fanno i radioamatori rimangono a bocca aperta, perché sanno programmare, ci fanno i programmi, vanno sui vari tipi di decodifica, eccetera. È un lavoro veramente difficilissimo, non è voler usare un collegamento. Il collegamento bene o male, se ci propassiamo lo facciamo tutti. È un lavoro in cui vedere un po' come la tecnica. E quando fai ascolto, secondo dove sei, in che frequenza lo fai, è un disastro, anche perché copre tutto lo spettro di frequenze, dalle onde lunghe per salire fino alle frequenze satellitari. Quindi è una cosa complessa, molto più di fare radioamatori o di quelle cose lì. Poi alcuni sono anche radioamatori e fanno anche trasmissione, ecco. Però già la ricezione è una cosa, insomma, di tutto e di assoluto rispetto. Tu non hai mai ascoltato, ad esempio ci sono tanti sistemi digitali che chiunque può ascoltare. E così ti rendi conto anche della bontà dell'antenna, se sta andando bene, se riesci a decifrare tante cose, ci sono anche i bollettini dal mare, le comunicazioni tra navi e così via, ormai è tutto in quello che una volta si chiamava telescrivente, che c'è ancora, sì, però è un po' più evoluta, dai. Sì, ma io per tante volte ascolto, queste cose le ascolto, sia col portatile che ho, il ricevitore, lo metto in VHF ad esempio e ascolto anche le notizie marittime, eccetera, eccetera, tante volte anche in 40 metri, a 7.020, 7.030, dove c'è proprio il CV doppio, lì sino a 7.040 più o meno, a 50 forse anche, sono tutti in CV doppio, no? Generalmente vanno in fonia quella frequenza, vanno in frequenza da 7.060 in su, perlomeno io li ho sempre sentiti così, ma proprio all'inizio dei 7.000 MHz, ci sono tante persone che vanno su rumori in CV doppio, e tante volte, infatti mia moglie una volta mi ha detto, ma guarda, stai ascoltando questo rumore, sto ascoltando questo qui, e cos'è questo rumore? Stanno trasmettendo, questo rumore ha un significato, ogni colpo che senti ha una sillaba, per cui compone una parola, però bisogna capire anche, saper leggere, saper ascoltare, il CV doppio, ovvio, no? Sì, ma tu ascolti, la domanda era questa, tu ascolti solo il rumore o ascolti, o tramite il rumore riesci anche a decifrarlo mentalmente, il CV doppio, come dovrebbe essere, per capire effettivamente chi sono e cosa stanno dicendo? No, io non lo conosco, il CV doppio io non lo conosco, dunque sento le note e basta, tutte le note che mandano, niente di più, ma mi limito a quello, però non lo so, se quel punto in linea, queste cose, punto corto, punto lungo, però queste cose qua io non le so, perché non le ho mai studiato, non ho mai fatto scuola di CV doppio, però le note chiare capisco benissimo che sono note di trasmissione. Ho capito. Allora, dunque, quello che ti voglio dire è che chi è appassionato della radio, per l'appunto le piace fare ascolto, ci sono dei sistemi con cui tu potresti, senza spendere niente, è infatti una cosa che nonostante si ribadisca tante volte, la gente non pensa che sia chissà che cosa, mentre invece non è così, anzi come si può dire, con un pezzo di fil di ferro e una molletta riuscireste ad avere delle soddisfazioni che probabilmente tu non immagini neanche che c'erano, è come avere un tesoro e non sapere che ce l'hai, in parole poche. Quindi con quell'apparato, ad esempio, che stai usando tu, dietro, se c'è un manuale, se c'è qualcosa, ti sarei accorto che c'è una presa. Se non c'è queste prese, ad esempio, però c'è anche un semplice o vecchio ricevitore, vedrà che sicuramente c'è una presa audio, quindi una presa di registrazione, come ce l'ha l'ICR71 e quegli apparati lì. E quindi potrebbe benissimo ascoltare tramite un PC qualsiasi e demodulare, come si direbbe in cerco, questi segnali che tu senti solo ma non sai cosa sono, e avere la soddisfazione di dire ho ricevuto